Palazzo Grimani. Grimani è una famiglia importantissima. Il doge Grimani fu l'autore del taglio di Porto Viro che portò a Venezia una scomunica ma salvò la laguna, una storia che già vi ho raccontato. Restiamo nella Serenissima per conoscere e per approfondire non solo il nostro protagonista David Seymour, fotografo, ma anche alcuni aspetti che non sono esattamente quelli più meramente turistici della città più bella del mondo. Comunque, iniziamo con una piccola nota biografica. David Seymour nasce a Varsavia nel 1911 da una famiglia di editori che realizzavano opere in lingua yiddish. La sua famiglia poi si trasferisce in Russia allo scoppio della Prima Guerra Mondiale per tornare successivamente a Varsavia nel 1919. Dopo aver studiato a Lipsia, chimica e fisica, andrà alla Sorbona negli anni 30. Seymour decide di restare a Parigi. Un amico di famiglia, proprietario dell'agenzia fotografica RAP, gli prestò una macchina fotografica e appunto da lì si comincia con una carriera quanto mai intensa, e non solo dal punto di vista dell'espressione artistica. Quello che di Seymour a me colpisce di più nelle immagini, e non solo in qualche attimo, mostre fotografiche poi stupiscono perché certi scatti sono diffusi e noi non sappiamo della provenienza, sono molto presenti in ogni aspetto, ovviamente in forma di copia, ma trovarne in esposizione con un percorso artistico curato, con una rassegna che, come ho detto, comprende non solo una realtà biografica ma anche per sezioni tematico nella vita di David Seymour. Beh, questi scatti che sono, come vi ho detto, presenti e tecnicamente, artisticamente, ma c'è anche una forza e uno sguardo di sensibilità emotivo che dà all'artista, più che fotografo di cui vi sto parlando, il vero valore aggiunto e la capacità anche di variare questo tema di vicinanza e giocare con le immagini, andare a toccare dei tasti che sono legati alla malinconia ma allo stesso tempo anche all'ironia. Ecco, queste probabilmente le note tra le prime che mi vengano in mente parlando di Seymour, e ne abbiamo poi fatto conversazione con Marco Minuz, che già abbiamo conosciuto, disponibile oramai co-redattore di Radio Città Fusico, perché per quanto riguarda la fotografia direi proprio che è la voce presente al Breakfast Club nella rubrica In Mostra. Quindi non ci resta che iniziare con questo viaggio per immagini e emozioni verso Palazzo Grimani a Venezia. Parliamo di un protagonista che a Palazzo Grimani ci porta in percorso fotografico, e con noi il curatore dell'esposizione Marco Minuz, che saluto. Grazie, buongiorno e bentornato. Grazie per l'invito, un grande piacere ritornare con voi. Iniziamo con un identikit a proposito di David Seymour, una breve presentazione. David Seymour è uno dei grandi fotografi del secolo scorso, è una persona che forse è stata un po' dimenticata. Nasce nel 1911 in Polonia, una serie di passaggi che lo portano prima in Germania, poi successivamente in quella città così effervescente come era Parigi negli anni 30, ed è un personaggio poliedrico con molte sfaccettature, un grande fotografo che purtroppo per una serie di motivi è stato un po' dimenticato. Allora, l'intento di questo progetto era proprio quello di rimettere la luce su questo personaggio e cercare di costruire un percorso che permettesse di descrivere i passaggi fondamentali della sua carriera e cercare anche di delineare la sua importanza nel contesto fotografico del Novecento, perché poi alla fine lui divenne uno dei fondatori dell'agenzia fotografica Magnum nel 1947 a New York. Di cui sarà anche un leader, un presidente della stessa società. Sì, senz'altro, perché nel momento in cui nel 1954 Robert Capa ci lascia in maniera improvvisa, in maniera tragica, c'è la necessità di trovare una persona che riesca a portare avanti quell'esperienza, che era un'esperienza in primis di natura imprenditoriale, poi era anche un gruppo di amici che volevano cercare di affermarsi nel mondo della fotografia con delle proprie specifiche regole. Però in quel momento c'è un'assenza importante, e nella stessa stessa data in cui viene data comunicazione che Robert Capa perde la vita in Indocina, arriva anche un'altra tragica notizia, che Werner Bischoff, altro fotografo che da poco era entrato all'interno dell'agenzia fotografica Magnum, perde la vita. Quindi è una giornata tragica per l'agenzia fotografica che era stata fondata solo 7 anni prima. E lì, in quel momento, David Seymour decide di prendere la carica di presidente per condurre questa cooperativa, perché la Magnum tale è, fuori da quel momento di difficoltà e portare avanti l'eredità ma anche questa esperienza. Purtroppo però la sua vita, come dicevo, nasce nel 1911, termina 2 anni dopo, nel 1956, un'altra esperienza tragica per la Magnum, perché in quel momento David Seymour con un suo collega francese si trova presso il canale di Suez per testimoniare gli scontri che erano avvenuti in quell'anno e appunto si trova al centro di uno scontro a fuoco e perde la vita anche lui. Quindi lui sarà presidente della Magnum, sarà un presidente importante, ma il suo periodo di mandato sarà breve, perché solo 2 anni dopo anche lui verrà a mancare. Ciò di cui hai bisogno, disse una volta mentre un noto fotografo parlava della psicologia dietro una delle sue foto, è un po' di fortuna e muscoli sufficienti per far scattare l'otturatore. Avrebbe potuto aggiungere un buon occhio, un cuore e un fiuto per le notizie, perché tutti questi erano evidenti nel suo lavoro. Dialogo tra Seymour e Judith Fried, appunto, a proposito di una sintesi su questa arte, su questo coraggio, perché la prossimità, un altro aspetto fondamentale di Seymour, il soggetto nella importanza di questo ritratto, la paura e il coraggio allo stesso tempo ripreso nelle immagini di Seymour, che come poi tra l'altro nella descrizione che ho dato, corredata dalla Marco Minuz, che porta e aggiunge anche purtroppo storicamente un aspetto sottovalutato, meno presente, ecco, diciamo così, dire che, ribadisco, nonostante io non sia certamente un'autorevole voce nella fotografia, mi sto avvicinando adesso grazie alla passione che curatrici e curatori come Marco Minuz mi stanno portando ad avere, perché avere la fortuna di dialogare con questi soggetti certamente ti apre un mondo. E quindi, ah, ma questa immagine io la conosco, ah, è lui, sì, è lui, vedi in questa foto quanto riporta nella prossimità del soggetto, quanto dà attenzione a questo sentimento, non solamente per quanto riguarda la situazione bellica, i conflitti, abbiamo parlato dell'Indocina dove per perderà la vita Robert Capa, lo stesso Seymour perderà la vita su un conflitto al canale di Suez, e quindi una presenza costante in zone che definire calde è un eufemismo, ma non solo, approfondimento sull'Italia, su alcune città, ovviamente Venezia, e sui soggetti ritratti, con una particolarità appunto sui soggetti di cui parleremo tra poco con Marco Minuz, che veramente dal punto di vista emotivo toccano delle corde molto profonde. Johnny Griffin. Perché ho voluto Johnny Griffin in questa colonna sonora? Perché secondo me è un underdog, anche lui un personaggio dal talento veramente indiscusso, sax tenore, hard bop moderno, molto capace, coinvolgente, magari diciamo che non ha avuto il riconoscimento, il podio che indubbiamente avrebbe meritato. Che ho portato in precedenza da uno dei suoi dischi più rappresentativi per la Blue Note, The Congregation, il dialogo tra lui e Sonny Clarke al pianoforte è veramente immagine. Terremo invece questo lavoro, dove è presente nella seconda parte di conversazione con il curatore dell'esposizione dedicata a David Seymour, con Milt Jackson, con Kenny Clarke e altri presenti, Sahib C. Hub, a proposito di grandi sassofonisti vicino a Johnny Griffin. Ma è il momento di entrare o iniziare per quanto riguarda i percorsi in mostra. Torniamo in mostra e parliamo dell'esposizione in quanto logistica e come è stata strutturata. La mostra è all'interno di un palazzo bellissimo, straordinario. Tutte le persone che vengono a vedere la mostra rimangono affascinate da questo spazio. Si tratta di Palazzo Grimani, che è un palazzo che appartiene allo Stato, quindi al circuito dei musei nazionali, che si trova anche in una posizione estremamente felice, come Campo Santa Maria Formosa, proprio accanto alla Fondazione Querini Stampaglie, a circa 200 metri da Piazza San Marco. Ma non è proprio al centro del grande percorso del flusso del turismo e quindi è una vera e propria scoperta. Non molte persone lo conoscono. Nel momento in cui si entra in questo palazzo, che era la dimora di questa famiglia molto importante a Venezia, che erano appunto i Grimani, grandi commercianti, che poi successivamente alcuni membri della famiglia diventeranno anche dogi, si entra all'interno di uno spazio meraviglioso, uno spazio dalle dimensioni enormi anche per Venezia, che è stato riaperto non molti anni fa e che permette di avere sia la parte di percorso al piano nobile, in cui si vede parte delle collezioni di questa famiglia, che erano dei grandi collezionisti, e al secondo piano c'è percorso per le mostre temporanee. Lì abbiamo organizzato il percorso. Il percorso è un percorso di natura fondamentalmente cronologico. Iniziamo dalla prima esperienza di David Seymour, che è quella che si riferisce quando lui è molto giovane, ha circa 25 anni, si trova a Parigi, non ha una piena conoscenza della lingua francese, non può fare il giornalista proprio per questo motivo e quindi si avvicina al mondo della fotografia. In quegli anni lì la fotografia è molto richiesta, ma al contempo è un'occasione per fare vero e proprio giornalismo attraverso le immagini, e questo gli permette di partire immediatamente per il conflitto che in quel momento era in atto in Europa, che era quello del 1936, che vedeva contrapposte in Spagna le forze repubblicane contro le forze franchiste. Quindi l'inizio della mostra è proprio quella sezione, la guerra civile spagnola, un'esperienza importante perché in quegli anni avrà modo di conoscere Robert Capa, Henri Cartier-Bresson e anche una figura leggendaria, una fotografa donna che a breve verrà ricordata in una mostra che si terrà a Camera a Torino, che è la figura di Gerda Taro. Quindi è un'esperienza importante dal punto di vista professionale, ma anche dal punto di vista di pensiero, di esperienza. E il percorso, poi ci sono successivamente altri momenti cruciali che poi magari andiamo a descrivere, e termina appunto nel 1956, quando si trova in Egitto e lì perde la vita in maniera drammatica. Thank you. nicchiata, quella di Johnny Griffin che stiamo ascoltando, da Congregation, disco Blue Note. È un lavoro al sax tenore che dal punto di vista sentimentale emotivo dà spazio alla microsensazione agrodolce, anche al gusto, un'estetica molto particolare, un'intensità tra soul e funk, ma anche nelle sensazioni hard bop tipiche della Blue Note, nella sensazione anche di ricerca che c'è nel suono e nell'interplay con gli altri musicisti presenti in questo lavoro, tra cui, come ho detto, Sonny Clark al pianoforte, la linea ritmica, Paul Chambers al contrabbasso, Kenny Dennis alla batteria. Sentiamo Sonny Clark, appunto, come vi ho detto, una delle voci del mondo hard bop, dal pianismo anche in questo caso lucido. Direbbe perca e sagna, sembra che ci siamo, si direbbe. Paul Chambers, Mr. Paul Chambers on double bass. Che sa entrare e uscire dalla scrittura per aprire il dialogo poi al volo di Johnny Griffin in questo brano che stiamo ascoltando, Latin Quarter. E cosa ha citato Marco Minuz, con che non smetterò mai di ringraziare perché è tra le voci che mi danno la possibilità di crescere per quanto riguarda anche l'aspetto in mostra della fotografia, con disponibilità, professionalità, grande ispirazione e competenza, porta la Querini Stampaglia. Ecco, Venezia è da, chiaramente abbiamo queste immagini, San Marco, Piazza San Marco, il Canal Grande, Rialto, potrei andare avanti ad oltranza, ma ci sono anche tante altre cose, tra cui la Querini Stampaglia. Sarete circondati da opere d'arte, sarete avvolti, un abbraccio artistico legato alla città, alla Serenissima, che non solo vi saprà coinvolgere ma darà un senso di stordimento. Io alla Querini Stampaglia vidi un dialogo tra Bellini e Mantegna, che ancora ricordo benissimo, di una bellezza e soprattutto di una ricerca avanti non so quanto nel tempo. Comunque, non stiamo parlando del mio amato Rinascimento veneziano, darò anche altri spaccati di Venezia che secondo me sono da non perdere nella conversazione che presenta la mostra Palazzo Grimani dedicata a David Seymour. Le caratteristiche, anche abbiamo dato un inizio di percorso per quanto riguarda David Seymour, ma le caratteristiche del fotografo Seymour. Intanto, quali sono anche le caratteristiche della fotografia di Seymour? La fotografia di Seymour è una fotografia di reportage, è una fotografia che si indirizza a raccontare quello che accade e, se mi permetti, anche con questa caratteristica che la vediamo anche in tutti gli altri fotografi che operavano in quei scenari e in quegli anni, una fotografia di prossimità, perché ovviamente bisogna tenere in considerazione anche la tecnologia che questi fotografi avevano a disposizione. Non era sicuramente il periodo degli zoom o delle apparecchiature che si poteva fotografare anche a grande distanza, quindi era una questione innanzitutto di vicinanza, si stava vicino a quello che accadeva, e queste sono fotografie in cui, e lo vediamo soprattutto nel lavoro di David Seymour, si avvicina molto alle tragedie, anche perché lui vive l'esperienza appunto della guerra civile spagnola, ma anche della seconda guerra mondiale in maniera estremamente importante, e quindi sono fotografie che vanno sempre a raccontare, a testimoniare in maniera più franca possibile quello che accade nelle persone. Al centro di tutto c'è sempre la figura dell'uomo, e a me piace sempre riprendere quella bella frase di Robert Capa che ripeteva: ama la gente, faglielo capire, e che probabilmente nei primi anni dell'agenzia fotografica Magnum è uno dei tratti distintivi di quel gruppo di amici che decidono di mettersi insieme per fare anche una società. Quindi la vicinanza rispetto all'uomo, no? Ai suoi dolori, alle sue paure, alle sue sogni, ai pericoli in cui va incontro o ai pericoli che purtroppo deve affrontare, anche in maniera, anche se non è una sua scelta personale. E quindi la ricerca del contatto diretto con le persone, non in maniera, utilizzo un termine forse che può apparire un po' troppo forte, in maniera pornografica come oggi, in cui molto spesso la violenza diventa anche pornografia, ma sempre in maniera rispettosa di colui che viene ritratto, quindi senza mai superare una soglia, rimanendo sempre ad un livello di rispetto a quello che il fotografo vuole ritrarre. E poi l'altro aspetto che per tutti i fotografi è molto importante, soprattutto il tentativo di cercare di avvicinarsi all'interiorità delle persone guardandole negli occhi, no? E quindi ci sono sempre questi dialoghi molto forti che si possono vedere all'interno di queste fotografie tra David Seymour, la sua macchina fotografica e le persone che vengono ritratte. Che bel identikit che ne hai fatto dal punto di vista emotivo, anche veramente molto coinvolgente. Ecco, l'aspetto di ritrarre situazioni tragiche, cruente, senza averne uno stereotipo che va a toccare il truculento, quella che viene definita la pornografia, una pornografia che attrae, per così dire, una visione neanche primaria, direi primitiva. Ecco, nonostante le tematiche, David Seymour era decisamente più legato, nonostante l'esporsi, al prendere altri sentimenti. 8:27 minuti, continueremo proprio con questi aspetti, dando approfondimento anche alle città dove ha lavorato il protagonista per oggi in mostra in Italia. E quindi un po' di musica con Johnny Griffin, pubblicità e poi si rientra. Ho altre chicche per Venezia, oltre la Querini Stampaglia, altre chicchine che poi vi dirò. Oh, permesso, eh. Tedesca per la Compost Record Teutonica e il progetto Alif 3 francese. Variamo un pochettino nella colonna sonora, protagonista del jazz di Johnny Griffin, e non solo, per commentare insieme a Marco Minus, curatore dell'esposizione a Palazzo Grimani, David Seymour. E intanto che abbiamo parlato di caratteristiche, biografia, aspetti che portano anche a un'emozione come valore aggiunto, oltre che una capacità artistica intensa, allora qualche aspetto anche legato alla Serenissima, la grande scuola di San Rocco, secondo me è da cadere a spalle indietro. La grande scuola di San Rocco con i cicli di Tintoretto è un altro consiglio così che metto a disposizione, anche se non richiesto. Non consultate, anche se la tematica è diversa, ma potrei darvi consigli anche su macari e trattorie in quel di Venezia. Sto parlando del TripAdvisor, che in questo caso invece secondo me è meglio consultare appassionati con un passaparola che è ben più affidabile tra amiche e amici. Procediamo quindi nella nostra conversazione, entrando in mostra va da sé una delle domande più immediate. E allora quante opere troviamo in mostra, Marco? All'incirca, tra fotografie, c'è qualche documento, siamo circa sulle 160 fotografie, quindi è un bel percorso. Partiamo dalla Spagna, ci spostiamo negli anni successivi alla Seconda Guerra Mondiale, perché lui, essendo anche di origine ebrea, è costretto a scappare e si rifugia, come tante altre figure intellettuali, artisti, fotografi, negli Stati Uniti d'America, e più precisamente nella nuova capitale della cultura internazionale, che diventa ovviamente New York, e lì prende la cittadinanza americana, svolge il servizio militare come tutte quelle persone che poi si spostano, e alla fine della Seconda Guerra Mondiale sente anche la necessità di ritornare in Europa, e più precisamente in Polonia, per capire cosa era successo, quali erano le conseguenze del conflitto mondiale e dove era finita la sua famiglia. E purtroppo si trova di fronte alla peggiore delle situazioni, in cui vede un paese completamente distrutto e capisce che i suoi genitori sono una piccola parte di quell'enorme numero di vittime, di persone che vengono uccise nei campi di concentramento. Quindi si trova in una situazione molto difficile e decide di ripartire proprio da qui, documentando quella situazione. E in quegli anni farà un percorso estremamente articolato, che si svilupperà tra la Polonia, l'Ungheria, la Cecoslovacchia, l'Italia, la Spagna, la Grecia. Ovviamente possiamo immaginare che questo grande, chiamiamolo così, tour di testimonianza degli effetti della guerra sulle persone e sui paesaggi fosse in parte anche coadiuvato all'interno di un coordinamento anche di natura militare, ovviamente, che ci fossero un aiuto da parte delle forze alleate che lo aiutavano a sviluppare questo percorso. E in questi anni prende l'incarico da parte dell'UNICEF nel 1948 di realizzare un grande progetto che per lui sarà un passo miliare nella sua carriera, che è un progetto dedicato ai bambini orfani di guerra, che diventerà poi una pubblicazione, che diventerà una mostra, e una parte di queste fotografie sono contenute all'interno del percorso. Quindi una grande sezione dedicata a questi anni successivi alla fine del secondo conflitto mondiale, dove David Seymour si sposta di nazione per cercare di raccontare, e in questo viaggio arriva anche in Italia. Venezia, trattoria Colonna, la Colonna, per quanto riguarda un consiglio non richiesto ma che mi permetto di dare, o il tipico baccaro veneziano, Vintedò, perché al numero civico 22 poi avrete modo con la potente mano digitale di avere informazioni. Io intanto ricordo i nomi, proprio perché al numero 22 è il gioco di parole Vintedò, ti do del vino. Mi raccomando, lo spritz col Select, eh? Siamo alla sezione dedicata alle vittime di guerra, alle vittime di quel post che sarà con una conseguenza irreversibile di tanti bambini orfani. Ecco, l'attenzione per questo spaccato importante è qualcosa, come ho detto, non legato, come ha citato prima Marco Minuz, a una immediatezza, ecco, diamo questo termine, ma piuttosto a un'emozione. Arriva in Italia, ovviamente Venezia è una delle protagoniste, ma non solo. Abbiamo creato una sezione specifica con fotografie che non erano nemmeno conosciute, dedicata a Venezia. Sarà alcune settimane ed è interessante, dove in questa stanza, dove raccoglie circa una ventina di fotografie, sono alcune fotografie che hanno un taglio molto importante, di racconto di quella Venezia che ormai è evaporata, che racconta di una Venezia di vita quotidiana, ma al contempo ci sono alcune stampe che sono caratterizzate anche da una grande ironia, che è la vera e propria sorpresa nel lavoro di David Seymour. Seymour, proprio per la sua esperienza, per quello che ha provato, per quello che ha visto, è sicuramente un fotografo che va a raccontare la tragedia e le forme molteplici della tragedia. In questo caso fa alcune fotografie che hanno un carattere ironico. Ne cito alcune che sono poi le fotografie che abbiamo anche utilizzato nell'immagine per promuovere la mostra. Questa immagine di questo enorme piccione si avvicina a un piccione, abbassa il suo punto di vista al livello della terra, prende lo fotografa quasi in primo piano e con alle spalle l'immagine del campanile di San Marco, e quindi questa sembianza di questo piccione diventa quasi un vero e proprio mostro gigantesco. E poi c'è la fotografia anche di Peggy Guggenheim, che in quegli anni decide di andare a vivere a Venezia, a Cavernier de Leone, questo palazzo dove porta tutta la sua straordinaria collezione delle arti, degli artisti dell'avanguardia, che lei aveva iniziato a collezionare negli anni 30, e dove c'è lei con questi suoi occhiali estremamente vistosi, con i suoi cagnolini su questa gondola, un'immagine che quando uno la vede dice: ah, l'ho già vista. E quindi c'è questa scoperta di questo David Seymour anche ironico. E poi si transita sulla parte dedicata a Roma. Roma diventerà negli anni 50 una sua seconda dimora. E ricordiamo che David Seymour poi non ebbe mai nella sua vita una casa, una fissa dimora, ma abitò sempre in stanze d'albergo. E qui è un altro periodo importante in cui realizza molte fotografie dedicate alla grande sviluppo del cinema italiano di Cinecittà, quindi con anche le dive. E poi c'è la sezione dedicata alla nascita dello Stato Israele, che lo tocca in prima persona, quindi sarà uno tra i primi a testimoniare l'arrivo di persone da tutto il mondo per l'avvio appunto di questo Stato. Ed infine il 1956, quando si trova appunto in Giappone, come ho già detto prima, e lì perde la vita. Thank you. ascoltiamo anche un po' di Voltiamo Pagina all'interno della rubrica In Mostra. Ok. Allora, a Venezia, ogni tanto ho fatto già qualche citazione, mi riprometto di farne un servizio con tanto di voci dei protagonisti, libreria Acqua Alta, la più bella libreria che io abbia mai visto. David Seymour, Il mondo e Venezia, 1936-1956. A questo punto è importante anche sapere la durata dell'esposizione. La durata della mostra sarà in esposizione fino al? Si chiuderà il 17 di marzo, quindi ci sono ancora circa quasi 2 mesi per poter vedere questa mostra, ed è una mostra che cerca anche come allestimenti di dialogare appunto con la bellezza di questo spazio, di queste stanze che ci ospitano. Allora, c'è un'immagine che per me è strepitosa, c'è questo distributore di benzina con tanto di marca e logo, come appunto fosse un autogrill ante litteram nel passato, con una barca sullo sfondo che si sta avvicinando. Siamo in laguna ed è un'immagine secondo me di una poesia, di una bellezza, quella lì che, scusa questa divagazione, ma ci tenevo a portare anche questo aspetto che nella fotografia di Seymour, che ho, come hai detto tu, ah, questa l'ho già vista, ah no, ma questa mi ricordo, quando poi vai a vedere le immagini, che è anche un'aggiunta di malinconia e poesia controllata che è di una bellezza immensa. La tua descrizione è bellissima, coglie perfettamente la strana combinazione di differenti elementi che animano questa immagine, in cui c'è appunto la nota ironica di vedere un distributore di benzina sul Canal Grande, sì. Però al contempo anche questa malinconia di questa Venezia che ormai è evaporata, non c'è più, ed è pienamente e solamente immersa nel grande flusso enorme di turismo internazionale, che è anche un'occasione per riflettere su questa Venezia che abbiamo perso. E allora aggiungo, ringraziandoti, prima potremmo parlare per ora di Palazzo Grimani, che i dogi che hanno portato il taglio di Porto Viro erano di Grimani, quindi un'importanza fondamentale per aver salvato la laguna. Dopodiché la vicina con Querini Stampaglia, che adoro, è una sede anche quella espositiva, se fate la gita nella Serenissima, da non perdere. E allora io ti ringrazio per questa conversazione, ci diamo appuntamento a un altro motivo in mostra e ti auguro una buonissima giornata. Grazie anche a voi, è stato un piacere e alla prossima. triste Venezia, soltanto un anno dopo. Non potevo che fare un mix tra la mia orrenda voce e questa ballad di Johnny Griffin che chiude la nostra playlist e chiude anche la puntata dedicata a David Seymour, Il mondo e Venezia 1936-1956, ringraziandovi per l'attenzione e portando invece l'attenzione al teatro per la giornata di domani con triplo appuntamento in scena. Caloroso abbraccio, mi congedo a voi con un raggio di sole che sta arrivando nonostante la giornata invernale, donando una luce bellissima. Con il Breakfast Club odierno siamo arrivati al termine, a breve di Pen Enciclopedico, Liberi Dentro a seguire, dopodiché la rassegna stampa curata e condotta da Alfredo Pasquali. Il Grande Rock con Angela Zocco e Andrea Gozza vi accompagnerà alle 12.30 e quindi il Breakfast Club vi aspetta alle ore 7 per fare colazione assieme, e dal vostro William Piana un buon giovedì, un buon ascolto e una buona giornata. Ciao!